Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Nei settori più disparati accade spesso che l'innovazione si esprima attraverso il recupero di saperi o di tecnologie antiche, poi però potenziate tramite la tecnologia le conoscenze moderne. Ne sono esempi lo sfruttamento banalmente dell'energia solare e del vento, e può certamente esserlo la biofumigazione che recupera un'antica pratica detta sovescio, poi vedremo, e che mira a sostituire una delle pratiche agricole più pesanti dal punto di vista ambientale, la fumigazione, appunto. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, Luca Lazzeri, ricercatore del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Buonasera Lazzeri, bentornato. Buonasera a voi. Allora, intanto partiamo da questa fumigazione che vogliamo far sparire possibilmente. Che cos'è? La fumigazione è un sistema di controllo chimico dei patogeni che ci sono nel terreno e in altre zone attraverso l'uso di prodotti volatili e biocidi molto impattanti. Cioè sostanzialmente si sparge un veleno molto volatile sul terreno, volatile così poi non rimane nel terreno, e questo ammazza tutto, crea il vuoto biologico, si chiama così, no? Sì, non hanno selettività per i diversi organismi che ci sono nel suolo e quindi come tale disinfestano il terreno nel suo insieme. Nonostante gli organismi utili siano mille volte più numerosi di quelli dannosi appunto nel terreno. E veniamo quindi alla biofumigazione, che dicevo affonda le radici in questa antica pratica del sovescio. Che cos'è la biofumigazione? La biofumigazione è un ritorno alle origini di quelli che erano i mezzi tecnici che erano disponibili per l'agricoltura di prima del petrolio, e che prevedeva l'uso di piante che venivano coltivate e reinterrate per migliorare la qualità della fertilità del suolo. La biofumigazione semplicemente apporta delle piante particolari che hanno delle molecole attive che usano per la loro difesa e che noi applichiamo al terreno per migliorare anche la fertilità e le condizioni generali del terreno. Ok, quindi è un sovescio praticato con delle piante molto particolari, in realtà piante che poi spesso conosciamo molto bene. Ci fai due esempi di due piante e anche di due strategie di difesa che queste piante mettono in atto? Sì, che noi sfruttiamo. Le piante sono essenzialmente delle famiglie delle brassicacee, che peraltro sono anche nella nostra alimentazione. Come per esempio? Come i ravanelli, la rucola, il cavolo, i broccoli e quant'altro, che hanno questo sistema di difesa particolarmente interessante e che altro non è che il pungente della salsa di mostarda, per capirsi. Quel piccantino lì è il segno che c'è dentro, no? Esatto, nella pianta questa sostanza antiparassitaria. Esatto, e se fra l'altro sono anche composti molto volatili, perché poi l'odore della mostarda, del barattolo di mostarda si sente un po' in tutta la casa quando lo lasciamo aperto. Con il sovescio, con la macinazione e l'interramento di piante che hanno queste essenze, direi, biocide, si spargono poi queste molecole, essendo volatili, nel terreno, e facendo un'azione simile a quello che era il prodotto chimico da un punto di vista di applicazione, ma completamente diverso da un punto di vista strategico. Strategico, ecco, spieghiamo bene, perché qui in realtà c'è un cambio di paradigma. Si dice biofumigazione, ma è veramente qualcosa di completamente diverso. Beh, biofumigazione è un termine che abbiamo inventato qui in Italia ed è forse un po' anche poesia. Fuorviante. Volevamo dare l'impatto dell'alternativa al fumigante, ma la cosa è ben diversa, perché qui non facciamo un vuoto biologico, ma al contrario, con questa grande quantità di sostanza organica che aggiungiamo, di fatto la vita, la vitalità, i microrganismi del terreno aumentano molto. E quindi puntiamo ad avere sì un controllo di alcuni patogeni, ma anche un aumento degli organismi utili sostanzialmente. Esatto, una maggiore, no? Competizione nei confronti dei patogeni. In alcuni casi, come nel caso della rucola, poi ci sono delle approcci ancora più virtuosi, diciamo. Sì. In questo caso le piante sono selezionate per un alto contenuto di questi, certo, piccanti. Questo è l'aspetto tecnologico, piccante, esatto. Avete sviluppato delle varietà molto potenti, diciamo così. No, ma più che potenti, che hanno un alto contenuto nelle radici, quindi okay. Alcuni patogeni che si cibano di queste radici. Esatto, si cibano di un substrato avvelenata e quindi come tale muoiono sulle radici. Dunque, abbiamo parlato della coltivazione dell'interno sbarramento di queste piante particolari, in realtà la biofumigazione si può fare anche con degli altri approcci. Ricordiamo velocemente quali sono? Sì, il sovescio è una pratica stupenda ed è assolutamente da rilanciare, però ha delle difficoltà di praticità, in quanto occorre il tempo per coltivarla. Allora, partendo sempre dalle solite piante, le abbiamo mandate a seme e abbiamo fatto delle farine, e con questi prodotti, cioè le farine e l'olio, ne abbiamo fatto dei veri materiali, dei pellet molto piccoli che si possono distribuire interrare nel terreno. Possono essere usati assieme al sovescio o in alternativa al sovescio, e anche dei prodotti liquidi che possiamo arrivare anche a spruzzare sulle piante per il contenimento e la fertilità della pianta nel suo insieme. Va bene, grazie Luca Lazzari. Grazie a voi. È tutto anche per questa sera, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.